Allora, questa lezione del 18 novembre. Va bene, allora starò, credo, spero, non posso la faccio oggi, perché comincio sempre così. Cerchiamo di mettere a punto le questioni, altre questioni sul linguaggio. Allora, se non mi ricordo male, nella lezione scorsa ho parlato principalmente dei linguaggi, non del linguaggio naturale, cioè dei linguaggi artificiali o, diciamo, della componente logica, della struttura logica del linguaggio naturale. Non spero di non dover perdere troppo tempo a sottolinearvi che la struttura logica non esaurisce il linguaggio naturale. Il linguaggio naturale ha molte altre componenti, dinamiche, molti altri aspetti, molti altri modi di funzionare che vanno al di là, che vanno oltre o che vanno di lato alla struttura, alla pura e semplice struttura logica. Se il linguaggio, come pensano alcuni linguisti e come hanno pensato per buona parte del Novecento molti filosofi del linguaggio, nell'essenziale potesse essere descritto con la sua struttura razionale, in fondo non ci sarebbe differenza tra i linguaggi naturali e i linguaggi informatici, mentre invece questa differenza c'è, non c'è alcun dubbio, cioè i linguaggi informatici non hanno la duttilità, e per quante non è una questione né di ricchezza di simboli né di ricchezza di lessico, eccetera, potete aggiungere quante cazzo di variabili volete o quante funzioni logiche volete ad un linguaggio informatico, ma un linguaggio informatico non avrà mai la capacità di esprimere la ricchezza in primo luogo relazionale che ha, diciamo, il linguaggio umano, che hanno tutte le lingue umane. Non pensate neppure che ci sia una corrispondenza tra sviluppo economico o complessità sociale e complessità del linguaggio. Purtroppo le lingue ormai da più di un secolo, da quasi 2 secoli, si stanno perdendo con un ritmo impressionante, cioè muoiono decine di lingue tutti i giorni. Lingue parlate da piccolissimi gruppi, fino a 10 anni fa, 50 anni fa, erano migliaia, poi diventano alcune centinaia, poi diventano alcune decine, poi diventano alcune unità. Ancora adesso negli USA ci sono alcune micro comunità di parlanti delle lingue. Il Nord America era una delle regioni della Terra con la più vasta diversità linguistica che ci fosse. Non c'è un'unica famiglia linguistica, non c'era un'unica famiglia linguistica tra quelle parlate dai nativi nordamericani, ma sicuramente due, alcuni linguisti pensano addirittura tre. Una grande, ovviamente, è imparentata con l'eschimese e con il cosiddetto aleutino, e altre invece imparentate, quelle più verso il sud, imparentate con alcune lingue del Sud America, eccetera, quindi tutta la grande famiglia Pueblo, Navajo, Hopi, eccetera, eccetera, poi altre, però, vabbè, e diciamo solamente la colonizzazione bianca nel Nord America, come quella del Sud America, insomma, grosso modo, nel Nord America, perché nel Nord America non c'erano delle vere e proprie civiltà, non c'era neanche l'agricoltura, insomma, erano tutte comunità ancora a livello del Paleolitico, però c'era una ricchezza enorme, c'era una varietà, e sono passati poco più di 2 secoli per ridurre tutte queste popolazioni. Sapete che alcuni parlano di genocidio, cioè sostengono, cioè si può discutere se può essere usata questa parola, perché ovviamente non si è trattato di un progetto specifico, cioè non è che nessun colono americano ha mai pensato di sterminare coscientemente alcuni forse sì, ma insomma non è quello diciamo, il problema. Però di fatto il comportamento dei bianchi nel continente, insomma, in tutti i posti dove sono andati nel mondo, dove già non ci fossero, certo in Cina, nell'Asia non è diciamo, riuscito, ma perché lì c'erano già delle civiltà, cioè su qui divago. Torniamo al punto. Allora, siccome quello a cui poi mi interesserebbe arrivare nella seconda parte del corso è il rapporto tra la parola e l'immagine, però insomma, bisogna evidentemente, dobbiamo ancora fermarci un po' a riflettere sulle caratteristiche del linguaggio naturale, e il tema di questa prima parte era ed è il rapporto tra linguaggio e natura umana. Allora, sulle origini, cioè che cos'è il linguaggio? Che cos'è, dico, dal punto di vista della sua origine? Da un certo punto di vista ovviamente non si può rispondere a questa domanda, perché sarebbe una domanda analoga a quella, dice, cosa sono le ali per gli uccelli? O cos'è la coda per i castori? Il linguaggio è un prodotto dell'evoluzione naturale. I linguisti, come moltissime altre categorie di studiosi, non sono certamente gli unici comunque, e in modo particolare i linguisti sono, a volte mi stupiscono per l'accanimento con il quale si dedicano a studiare, si direbbe, questioni di lana caprina, insomma, o comunque che servono poco poi a capire. Allora, non c'è nessun linguista, tranne che sia un seguace di Buttiglione, o cioè, no, insomma, che sia un idealista così, vabbè. Diciamo, nessun con linguista mette in dubbio l'origine biologica del linguaggio. Il linguaggio è una delle caratteristiche, probabilmente forse quella fondamentale, che distingue la specie umana in quanto tale. Quindi, in senso lato, come tutte le caratteristiche degli esseri viventi sono il prodotto di un processo chiamato da Charles Darwin, un secolo e mezzo fa circa, selezione naturale, così anche il linguaggio è il prodotto della, diciamo, selezione naturale. Però, voi comunque sapete che sul darwinismo ci sono state numerose discussioni, quindi lasciamo perdere, adesso non voglio neanche discutere le come dire, teorie che non hanno neppure il più lontano statuto di teoria scientifica, come il cosiddetto creazionismo, e neanche la variante furbesca del creazionismo che si chiama intelligent design. C'è una parte dei creazionisti dicono, ah beh sì, però c'è comunque, guarda, non c'è Dio, però c'è questo progetto intelligente, non sarebbe possibile spiegare la natura senza un progetto, diciamo, intelligente, evidentemente no. È vero però che i meccanismi della selezione naturale non sono ancora così chiari e così stabiliti, o comunque su di essi non c'è un accordo completo nella comunità scientifica, tanto è vero che oggi, cioè dalla seconda metà del XX secolo, si parla di un neodarwinismo, cioè di una correzione, di un completamento delle teorie darwiniane. Ce ne sono vari di neodarwinismi, quello che in questo momento è il più accreditato è quello che fa capo a biologi come Lewontin, come cazzo si chiama, Gould, Stephen Jay Gould e Nils Eldridge, che sono tutti sostenitori di una teoria che è stata chiamata in vari modi, forse il modo più diffuso è quello degli equilibri puntuati. Questa teoria corregge o completa il darwinismo classico, nel senso che non concepisce l'evoluzione come un processo, non dico lineare, ma neanche costante, diciamo continuo, cioè per cui ci sarebbero stati una serie di piccoli cambiamenti di volta in volta che poi cumulandosi darebbero luogo ai macro cambiamenti, come dire, quando una quantità di piccoli cambiamenti si sommano, c'è l'evento che dà luogo alla creazione di una specie nuova, cioè uno dei problemi più importanti che deve spiegare insomma l'evoluzione naturale è quello della cosiddetta speciazione, cioè la creazione delle specie. Diciamo nella versione classica o nella versione più ingenua, diciamo così, del darwinismo, la speciazione è un processo continuo, cioè la discontinuità non è vista come nient'altro che l'accumulo di una serie di continuità, cioè di piccoli cambiamenti che da soli non generano un nuovo, come dire, fenomeno. C'è certamente una, diciamo, teoria così integralmente, diciamo, continuista è chiaramente contraddittoria di per sé, perché non ci spiega il criterio a partire da quando il piccolo cambiamento che si è sovrapposto un pezzettino all'altro diventa un macro cambiamento e quindi genera l'emergenza di una nuova specie. A partire da quando alcuni particolari individui di una specie sconosciuta di primati 4 milioni e mezzo di anni fa hanno cominciato ad assumere una stazione semieretta e poi totalmente eretta con una serie di cambiamenti muscolari nella struttura del corpo, nella struttura del bacino, principalmente, eccetera. Quando è che nasce Homo sapiens? Allora, da un certo punto di vista, dire quando nasce una specie è sempre una domanda stupida, è come dire quando nasce il linguaggio o perché nasce il linguaggio, eccetera. Però in qualche maniera, se voglio descrivere il processo, ho comunque bisogno ogni tanto di dire, va bene, convenzionalmente o interessantemente fisso a questo punto, diciamo, la soglia, fisso, dico, va bene, ci sarà, chiaramente non posso dire un giorno e un'ora, diciamo, precisa, ma dirò un range, diciamo, temporale nel corso del quale la linea evolutiva del primate che è più simile alla nostra linea, che è lo scimpanzé detto Pantroglodites, il Pantroglodites si separa da quello che è stato chiamato Australopithecus, e le due linee evolutive da quel momento divergono. Questo fatto, grosso modo, i paleontologi lo assegnano intorno ai 6 milioni di anni fa, quindi sono venuti 2 milioni di anni circa, perlomeno 1,5 milioni, più di 1 milione di anni, perché da questa, con quello che, con i fossili che si hanno, diciamo, a disposizione, perché come dire, emergesse una chiara differenza, cioè sono due linee. Diciamo chiaramente, diciamo, diverse, divergenti, due famiglie, due gruppi di esseri, entrambi, come dire, primati, quindi entrambi con certe caratteristiche, ma diciamo chiaramente divergenti, una quadrupede, diciamo quadrumani, e un'altra a stazione eretta o semieretta, una con la coda, l'altra senza coda, insomma è tutto l'insieme di cose, quindi una con una certa struttura del bacino e l'altra con un'altra struttura, una con una certa capacità cranica e l'altra con un'altra. La cosa difficile da capire, purtroppo, sono purtroppo, è che l'aumento della capacità cranica, che sarebbe quello che spiegherebbe, sarebbe più facile, perché spiegherebbe tutto o molto, purtroppo non è così antico. La capacità cranica degli australopitechi per 2 milioni e passa di anni non è tanto tanto diversa da quella dei gorilla e degli scimpanzé. E intanto questo vuol dire che la capacità cranica non spiega tutto. e più della capacità cranica, che poi comunque c'è, perché chiaramente per una serie di questioni, diciamo, poi in ultima analisi l'aumento della nostra capacità cranica deriva semplicemente dalla stazione retta, quindi è una questione di bilanciamento meccanico. Non possiamo avere, stando dritti, non possiamo avere il retro del cranio troppo piatto, perché sennò il peso andrebbe tutto in avanti e non, cioè, sarebbe, diciamo, difficile stare in equilibrio. Questo basta poco, ma questa piccola protuberanza che c'è dietro, quindi vengono favoriti gli individui che inizialmente in modo casuale hanno questa carica in più, e quindi sono quelli che scopano di più, mangiano di più, si sviluppano di più, e quindi danno origine a questa la cosa. Cioè, gli altri scopano meno e quindi non propagano i propri geni. Piacciono meno alle femmine, quindi le femmine non gliela danno, e per cui questi muoiono scapoli o muoiono anche disperati magari, ma insomma. Però comunque non propagano il proprio DNA. È banale, stupido, ma è, diciamo così. Quindi è possibile che semplicemente il cambiamento di forma, anche senza un aumento radicale del volume cranico, che ormai nel caso di Homo sapiens poi noi abbiamo circa quasi 3 volte la capacità cranica di un gorilla o di uno scimpanzé, ma gli australopitechi non erano così, avevano una capacità cranica di poco superiore, in certi casi anche uguale, qui è difficilissimo che vai a fare. Oggi possiamo fare statistiche, prendiamo 10.000 persone, togliamo Bossi e anche suo figlio, perché sennò ci abbassa la media, ma diciamo tutti gli altri li mettiamo dentro e facciamo una media. Ma con i fossili, come cazzo, già abbiamo 3 fossili, 4 fossili, cioè, faccio la media di 4 fossili. Magari erano proprio quelli. Bravo, magari, non si sa bene, perché lì poi vengono fuori, ci sono altri motivi per i quali sono sopravvissute le ossa. Possiamo pensare che siano sopravvissute quelle dei più sfigati, non quelle dei più, diciamo, dotati, quindi sono cose che non possiamo sapere. Però, diciamo, entro i limiti, qui si può fare un discorso di questo tipo. Non pare che a lungo, prima di Homo sapiens, Neanderthal anche c'ha una capacità cranica comunque maggiore, cioè, però i primi australopitechi, insomma, fino a che non c'è quello che oggi chiamano Homo, quindi Homo erectus habilis, quindi all'incirca 1 milione, 1 milione e mezzo di anni fa, tutta la linea degli australopitechi primitivi, dalla Farensis agli altri, che poi cambia sempre nome, quindi mo io vi dico una serie di parole. Io ho studiato queste cose all'incirca 15 anni fa, quindi tutta la mia, poi non è che, cioè, un sacco di cose da, insomma, studiare, non è che me le ristudio tutti gli anni, quindi sicuramente cambiano un sacco di nomi, sono comunque Australopithecus, vedo che è ancora usato. Nel testo che ho studiato io tanti anni fa si parlava addirittura di arcantropi, che è un termine che non si usa più adesso, per cui infatti io vedete che cerco comunque di usare anche con voi anche diciamo, i termini che sono sopravvissuti alla falcidia, alla selezione naturale dei termini scientifici in queste teorie qua. Comunque sia, insomma. Quindi probabilmente è la struttura che, diciamo, cambia, cioè il fatto che ci sia anche il fatto che il, diciamo, cervello scivoli anche di poco nella parte posteriore, quindi liberi uno spazio interno, diciamo lì, uno spazio nella parte frontale e parietale del cranio, tale che possa essere, poi non è che uno arriva lì e gli fa una siringata di tessuto, diciamo, nervoso, ma semplicemente, come al solito, vengono favoriti quelli che casualmente, bla bla bla, eccetera, eccetera. Insomma, ci vuole sempre un po' di tempo, ci vuole sempre quelle centinaia di migliaia di anni perché si selezioni poi una linea di questo tipo, che sono robe piccole, quindi evidentemente hanno bisogno di tempo, non sono evoluzioni culturali cosiddette, ma sono evoluzioni biologiche. Comunque sia, sta comunque di fatto che il linguaggio è l'effetto della comparsa nel cervello di alcuni primati della cosiddetta neocorteccia, cioè della parte che ce l'ha solo la linea, diciamo, umanoide, dagli australopitechi in giù. Questa neocorteccia, che è uno strato superficiale nella parte anteriore e laterale del, diciamo, cervello, e che è la sede delle funzioni più specializzate, tra cui in gran parte di quella linguistica. il linguaggio non si forma nella parte, non viene gestito, non viene prodotto né, diciamo, gestito nella parte più interna del, diciamo, cervello, né nel cosiddetto cervello direttile, e neanche nella zona più interna della corteccia che noi condividiamo con tutti gli altri mammiferi, ma si forma nella neocorteccia, quindi nelle circonvoluzioni frontali e parietali. Dopodiché non sappiamo ancora, non siamo neanche sicuri se ci siano davvero. Comunque, oggi siamo sicuri comunque che non c'è un'unica zona del diciamo, cervello in cui si produce e si gestisce il linguaggio, ma sono zone diverse, insomma, quella di Broca, quella di Verne, che sono state studiate nel corso dell'Ottocento. Va bene, comunque, adesso il punto divago sempre. No, divago perché allora il punto fondamentale è, diciamo, questo. Il linguaggio ha un'origine biologica, su questo non ci sono crisi. Però ci sono diversi meccanismi della evoluzione biologica. Uno è, come dire, il meccanismo cosiddetto adattativo, ed è quello che Darwin aveva individuato per primo, ed è, come dire, il meccanismo più semplice, cioè consiste nel, spiegandolo, se non ci sono biologi qua in giro, preferisco, grazie, perché magari penserebbero che semplifico troppo, che sicuramente è vero, comunque insomma per noi che non siamo come biologi possiamo dire così. Ci sono una serie di pressioni ambientali. Per esempio scarsità di cibo, oppure particolari caratteristiche, eccetera, eccetera. Queste pressioni ambientali fanno una pressione sugli organismi viventi, cioè in termini adattativi, cioè favoriscono la sopravvivenza di animali che sviluppano casualmente, quindi su tempi lunghi, in modo tutto casuale, senza nessun progetto, ma poi diciamo, il progetto si vede dopo, cioè come se ci fosse stato, ma in realtà diciamo, non c'era. Diciamo, per cui diciamo, sopravvivono quegli animali che sviluppano o un nuovo organo o una modificazione di organi preesistenti in modo da diciamo, adattarsi a queste come dire, pressioni ambientali. Adattativo vuol dire questo, adaptive. Quindi c'è una diciamo, teoria. Adaptation è una pressione che genera organi nuovi o modificati. Quindi nella linea, nel meccanismo, nel dispositivo dell'adattamento, c'è una relazione, diciamo, diretta tra condizioni dell'ambiente e modificazioni dell'organismo. L'organismo non utilizza cose che ha già per rispondere a quelle certe pressioni dell'ambiente. Sviluppa delle cose relativamente nuove, che sono o organi nuovi o, attenzione, non dovete confondere questa concezione adattativa dell'evoluzione con diciamo, l'evoluzione cosiddetta lamarckiana, con il punto di vista di Lamarck, che diciamo, nell'Ottocento e prima di Darwin fu il primo che enunciò una teoria dell'evoluzione, ma nella teoria di diciamo, Lamarck, che è stata chiaramente sconfessata nelle sue linee generali, perché poi alcuni piccoli elementi lamarckiani in realtà possono, e poi dopo vedrete dopo, possono diciamo, resistere, ma la teoria generale di Lamarck era riassunta nella formula la funzione crea l'organo. La funzione crea l'organo, cioè c'è la necessità di fare una certa cosa, un organismo si crea si riesce a farla in modo diretto, in modo diciamo rapido, veloce, relativamente veloce, e comunque in modo intelligente o para-intelligente. C'è una, nella teoria lamarckiana dell'evoluzione, c'è in qualche modo, per questo che molti dei creazionisti tentano, hanno comunque tentato e stanno tentando ancora in qualche maniera di rivalutare Lamarck verso contro Darwin, insomma. Perché lì è più facile mettere questo. Allora, non si tratta, non c'è nessuna funzione che crea nessun organo. Le creazioni, cioè il meccanismo di fondo dell'evoluzione rimane un meccanismo casuale, le mutazioni avvengono casualmente. E finché casualmente non compare quella mutazione che poi può svilupparsi nella nascita di un nuovo organo, non ci sono cristi, non ci sono cazzi che tengano, non c'è modo, cioè non si, come dire, quella pressione ambientale non crea nulla di per sé. Lo crea agendo su una serie di varietà, su una serie di variazioni che avvengono casualmente, perché adesso, se vi piace usare il modello del DNA, potete pensare, succede sicuramente così, ma secondo me non è l'unica cosa a cui dobbiamo pensare, comunque se pensare a livello del DNA, nel meccanismo di copiatura e di replicazione del DNA tramite l'RNA, capitano degli errori, come capita negli errori umani, capita nella macchina da scrivere, capita anche in biologia. Le mutazioni casuali sono solo l'effetto di questi errori. Fra la miriade degli errori possibili, se ce n'è qualcuno che crea degli organismi che reagiscono meglio, che sono più adatti a quelle certe condizioni ambientali, questi esseri nuovi casualmente vengono favoriti. Perché hanno più capacità di accesso al cibo e alla riproduzione rispetto ai loro confratelli che fanno parte della stessa specie ma che non hanno quelle variazioni. Quindi a lungo andare, quindi non c'entra niente, non c'è nessuna funzione che crea nessun organo, nulla, neanche lontanamente. Mentre la concezione lamarckiana era una, come di concezione, di rapporto meccanico tra, c'è da fare una certa cosa, allora questa misteriosa natura crea un organo, come se fosse un artigiano, che allora per Platone va bene, se c'era il demiurgo, c'era le cose, cazzi suoi. Ma noi che non siamo platonici e non siamo neanche seguaci totalmente del pastore tedesco, ci dobbiamo spiegare le cose in un altro modo, perché se no facciamo buffonate, insomma. Siamo tranquilli. Non siamo proprio tranquilli, perché? Perché in realtà alcuni, come dire, biologi, tra cui Gould e tra cui i neo, diciamo, darwiniani, sostengono che in realtà la pressione adattativa non è l'unico meccanismo che è responsabile del mutamento, della variazione degli esseri viventi e quindi della creazione di nuove specie. C'è un altro meccanismo che loro chiamano del pennacchio. Ovviamente lo metto tra virgolette, ma che vuol dire? È una metafora. Voi avete tutti presente, è un termine architettonico, sapete cosa sono i pennacchi in architettura? No, tu hai detto di sì, no, non lo sai. Ma... Se pensate si vedono bene nel portico della cattedrale di San Marco a Venezia, ma in qualsiasi posto in cui una cupola rotonda, circolare, venga innestata su una base quadrata. Se voi avete quattro colonne e ci dovete mettere sopra una cupola, una semisfera, che cosa succede? Che cosa dovete fare per raccordare le quattro colonne, i quattro vertici del triangolo alla cupola? Vengono fuori quattro figure più o meno così. tridimensionale, dovete pensare che si copiano. Queste cose qua si chiamano pennacchi in architettura. E per esempio perché si usa l'esempio di San Marco? Perché alcuni dei più bei, diciamo, dipinti sono fatti, di Bella Svezia, sono fatti su questi pennacchi, non sulla cupola, sulla cosa, che idea meravigliosa. Il pennacchio non è, in architettura non è nessuna idea meravigliosa, è una roba che casualmente, se cazzo, cioè, mi piace il tondo, mi piace diciamo il tondo, però è lungo, difficile fare un muro tondo, non lo faccio, quindi faccio un muro quadrato o metto le quattro colonne, che è, cioè, come dire, più facile. Il pennacchio è una cosa che, diciamo, è l'effetto collaterale, non progettato, non pensato, totalmente così, insomma, no? Diciamo, non mi viene la parolina, totalmente indipendente da ogni progetto dell'architetto, escono fuori perché sono delle cose in più. Una volta che ci sono, dice, arriva il pittore, dice, ci faccio le facce dei quattro evangelisti, guarda un po', sono quattro, gli faccio i evangelisti, oppure gli faccio le quattro stagioni, oppure gli faccio zia Pina, zia Caterina, Mastro Cola e compare Turito, cioè, le uso come ci vado. Quindi un pennacchio in biologia, nella biologia evoluzionista, quindi è una particolare configurazione biologica, un organo, un pezzo di organo, un meccanismo biochimico, che è un effetto collaterale di un processo evolutivo adattativo nel senso di prima, che perché, da che cosa possono venire fuori? I pennacchi, come i pennacchi in architettura, così i pennacchi in biologia, escono fuori perché l'organismo che li produce è un organismo complesso, ricco, in cui ci sono tante variabili. È molto difficile, non ci sono pennacchi nelle amebe, quando l'organismo è un'unica cellula, non ci sono pennacchi o non ci sono pennacchi degni di nota in un anemone, forse neanche in un lombrico, forse neanche già in un cavalluccio marino un po' ce n'è, ma non vengono usati. Sono tutte queste robe in più che c'ha, che sono casuali, sono, vengono fuori da, non è che sono, come dire, tutte le punte, le cose che ci rendono tanto carino, carino, in realtà è una cosa assolutamente, cioè, a che cazzo servono? A niente, non gli servono a lui, sono un sottoprodotto di qualche processo, come dire, biologico rimasto in quel modo lì. In quel caso non sono stati usati, dicono Gould e altri biologi. Attenzione, ci sono alcune cose in ecobiologia che non sono direttamente frutto di una pressione adattativa, ma semplicemente esprimono, attenzione, uso una, come dire, metafora, esprimono, come dire, una potenzialità creativa dell'organismo in qualche modo. Ci sono delle possibilità in più, ci si fa qualche cosa per. Qualche cosa, quindi, allora, mentre un organo che è frutto di una pressione adattativa è frutto direttamente di quel processo, è stata quella pressione che ha creato quel genere di particolarità del, diciamo, un pennacchio in biologia non è esattamente l'effetto di questa cosa, è un effetto collaterale e ancora più casuale, ma vista la ricchezza, diciamo così, la sovrabbondanza, ogni organismo biologico ha una sovrabbondanza, produce delle cose in più che non hanno un uso immediato, stanno lì, magari a lungo non vengono utilizzate. Allora, sul linguaggio c'è una diatriba che dura ormai da, diciamo, decenni tra linguisti e biologi sull'origine del linguaggio. Cioè, il linguaggio è una funzione, quindi ormai è una potenzialità, diciamo, è un organo immateriale, non è un organo nel senso, come dire, materiale, ma è una funzione specifica del, diciamo, cervello di una o più, chissà, non siamo sicuri, di una o più specie comparse su questo, diciamo, pianeta. Noi non sappiamo se gli australopitechi parlassero, se Homo erectus parlasse, se Homo habilis parlasse, se... io penso che sarebbe veramente strano che se Homo sapiens fosse l'unica specie che abbia parlato su questo pianeta. Purtroppo però adesso è l'unica attualmente che è, diciamo, rimasta, perché abbiamo fatto fuori tutti i nostri cugini, no? Non ce n'è rimasto vivo una di specie, l'ultimo che abbiamo fatto fuori il povero Neanderthal, recentissimamente, fino a 60.000 anni fa, l'Europa era piena di Neanderthal e noi non c'eravamo. Non c'eravamo. Sia io che Tommaso siamo due cromagnon, lui non sembra perché è biondo e ha gli occhi di, come dire, azzurri, ma siamo cromagnon tutti e due, quindi africani tutti e due, sia io che te, veniamo lì con buona pace di Bossi e dalla Lega, veniamo dall'Africa. Che sposo fai, non so, duri, perché è difficilissimo spiegare delle cose, però piano anche la maturità poi alcuni di essi. Più giovani ci mettono tanto, adesso più avanti sono i soldi, certo, perché poi li mettono, però non tutti, solo quelli che hanno un particolare cognome. Se l'è pure portato ai colloqui con gli altri partiti, ma sì, cazzo, dice Calderoli, Bossi, Maroni, vabbè, sono, cioè, manica di mascalzoni, però perlomeno. E poi pure Renzo Bossi, cioè se lo porta dietro nei versi della cosa, cioè, c'è una cosa scandalosa, cioè, poi uno dice che non ci sono dinastie, rimane pure questo, va bene, verrà incriminato per oltraggio ai vertici dello Stato, al ministro dell'Interno, va bene. Allora, tutti, diciamo, all'interno della generale accordo sul fatto che il linguaggio sia una caratteristica biologica, abbia una origine biologica, alcuni biologi e linguisti sostengono che il linguaggio è frutto diretto della pressione adattativa. Altri linguisti, tra cui uno dei più importanti linguisti contemporanei, che è Chomsky, e alcuni biologi, tra cui Gould, Chomsky e Gould non sono d'accordo su quasi nulla, ma su questa cosa sono stranamente d'accordo, partendo da punti di vista praticamente opposti. Loro sostengono che il linguaggio non è frutto della pressione adattativa, ma è un pennacchio. Cioè, sarebbe quindi, secondo questa teoria, come linguaggio sarebbe l'uso fortunato di una sorta di capacità che c'era in più, una serie di circonvoluzioni cerebrali, una serie di zone cerebrali che non sono state usate a lungo, però c'erano, stavano lì, erano come il pennacchio della catedrale di San Marco, cioè il risultato fortuito, casuale, non scusate, casuale, perché non è casuale, non voluto, non c'era stata nessuna pressione adattativa che avesse portato a quelle cose, ma nello svilupparsi delle circonvoluzioni nuove, eccetera, eccetera, ne sono uscite un tot in più che sono state lì, non sappiamo per quanto tempo, inutilizzate. A un certo punto una pressione adattativa, certo una pressione dell'ambiente, non ha creato un meccanismo direttamente adattativo, ma ha indotto, diciamo, una parte dell'organismo umano a utilizzare qualcuna di quelle cose in più che c'erano, qualcuna di quelle funzioni, di quelle possibili, di quelle possibili superfettazioni, cioè il termine giusto sarebbe superfettazione. Secondo le teorie del pennacchio, il linguaggio è una superfettazione del cervello, quindi è qualcosa che non ha risposto direttamente, non è stata la pressione adattativa che direttamente ha creato, col solito meccanismo, quando dico creato non vuol dire, che ha selezionato inconsciamente, no. È qualcosa che c'era già, è stato utilizzato per quello scopo. Adesso perché dico questione di lana qui? Che non ho alcuna. No, ho il massimo rispetto per tutti i neodarwinisti, i vetrodarwinisti, più tutti i brava gente, però cioè a noi per capire in che senso il linguaggio, cioè ci cambia poco a noi questa cosa, che sia frutto di una roba, che sia frutto dell'altra. Dal punto di vista del cercare di capire come funziona il linguaggio, eccetera, eccetera, almeno a livello attuale delle nostre, diciamo, conoscenze. Allora, perché, come dire, ve l'ho detta, ve ne dirò a volte. Allora, per dire, perché questo qua, questo è il libro, è uno dei libri che sostengono l'ipotesi adattativa, è un saggetto del... quando cazzo sei, del 1990, che però sono tradotto in italiano soltanto quest'anno, di Pinker e Bloom, che sono due linguisti, uno è un linguista, un altro, no, sono linguisti entrambi, uno è più, come dire, linguista, l'altro è più psicologo, ma insomma sono psicologi linguisti, professori di psicologia, Pinker e Bloom, che sostengono l'ipotesi adattativa. Ed è anche interessante se uno vuole leggere, insomma, però diciamo poi arrivati alla fine, non ho ancora neanche finito, però ormai ho già capito quello che vuol dire. Insomma. E mentre andavo avanti a leggere mi chiedevo, vabbè, ho capito, ma che ci frega a noi? Cioè a noi che non siamo biologi, che non siamo psicologi, che non siamo. Non, può darsi che sia un limite mio. Io non. Per il momento non mi riesce di capire se ha delle conseguenze, se le due ipotesi hanno delle conseguenze diverse rispetto all'una o all'altra o alle varie ipotesi sul funzionamento del dispositivo linguaggio in genere. Una volta risolta la cosa, e dico va bene, è un adaptive come dire, device, oppure è un pennacchio che non so come cazzo si dice in inglese, il termine in inglese c'è ma non me lo ricordo più come. È la traduzione di pennacchio proprio. Poi c'hanno adaptation, exaptation, c'erano di tutti i colori, insomma. Allora, sono cose interessanti, però cazzo non è che sono. Loro le chiamano, sì, le chiamano exaptation. Invece di adaptation, o le chiamano strutture cooptate. Strutture cooptate. Gli esempi che fanno a volte, per esempio, sono diciamo questi. Ci sono alcune specie di uccelli tropicali che non volano più, ce n'è anche qua in Europa. Tipo appunto galline, roba del genere. Però per esempio in alcune di queste specie tropicali le ali sono rimaste, quindi le ali sarebbero questa struttura complessa con quelle ossa fatte in quel modo, le piume, eccetera, e sono chiaramente delle strutture adattative per il volo, cioè perché quindi c'è stata una pressione per cui c'era, dal punto di vista della ricerca del cibo, eccetera, sono stati favoriti quei rettili che erano capaci di alzarsi sulla. Okay, e quindi così sono nati gli uccelli. Un ramo laterale ci hanno messo centinaia di milioni di anni per arrivare. No? In alcuni di questi, un organo che è nato con una certa, come dire, funzione, cessa la sua funzione originaria. Alcune di queste specie, per esempio, utilizzano le ali semplicemente per raffreddare più rapidamente la loro temperatura corporea in ambienti molto caldi. È chiaro che le ali non sono nate per quello scopo, però una volta che ci sono, e per esempio in questo caso cessa lo scopo originario per una serie di motivi, questo gli sta bene anche vivere a terra perché trova abbastanza lombrichi, non c'è nessuno che gli rompe i coglioni, nessun particolare predatore che gli scassa la minchia, eccetera, gli ha detto qua quindi non volo più. Allora a questo punto le ali le uso per, quello sarebbe un pennacchio, cioè sarebbe una struttura cooptata o una exaptation. Allora però io, insomma, il succo di questo discorso è A me ve l'ho detta perché è comunque un, come dire, dibattito che c'è, fa bene comunque saperlo che insomma ci sia, però io personalmente non capisco quali conseguenze ci possono essere sulla concezione, sul funzionamento, sullo studio generale del funzionamento del dispositivo del linguaggio, diciamo adottando l'una o l'altra di queste ipotesi. Mi pare, nella mia attuale ignoranza, abbastanza, come si dice, insomma, che fa lo stesso, è abbastanza equivalente, sufficientemente indifferente, ecco, dice indifferente pensare che sia una adaptation o una exaptation. Cazzi suoi, faccia quello che le pare, insomma, sia uscito come sia uscito. E allora, però, vi ho detto questo perché? Perché in realtà, però, invece c'è un problema che a me pare molto più rilevante dal punto di vista della questione del linguaggio, e cioè tutti e due i punti di vista esposti in questo, diciamo, dibattito, in realtà condividono una concezione, la quale invece a me pare molto più dubbia, cioè che vale la pena di discutere, di mettere in dubbio e quindi di vedere se sia più o meno, come dire, fondata. Che sia un pennacchio o no, entrambi i punti di vista sull'origine biologica del linguaggio in realtà, diciamo, accettano il punto di vista di Chomsky, che adesso vado a esporvi sinteticamente, rapidamente, la tesi, come dire, fondamentale. Chomsky è il rappresentante, cioè, indubbiamente, oltre che essere un bravo militante anarchico che ha fatto un sacco di lavori contro il potere, cioè, su cui non si piove, però insomma dal punto di vista scientifico per me è più, insomma, come dire, dubbio e insomma pericoloso, perché in realtà lui ha reagito negli anni 50 a tutta una concezione che era quella, chiamiamola, storicistica della linguistica dell'Ottocento e poi alla linguistica che si è sviluppata nei primi decenni, nella prima metà del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, che possiamo genericamente chiamare strutturalista, e che era una strutturalismo in linguistica, non è esattamente la stessa cosa che strutturalismo in filosofia, ma insomma alcune cose comuni, diciamo, ci sono. La concezione strutturalista della, diciamo, della lingua, della, come dire, linguistica, era una concezione, per, possiamo dire, per così dire, descrittiva. Cioè diceva, studiamo le strutture della lingua, vediamo come sono, come è fatta, e quindi in pratica era di tipo, chiamiamola, come dire, empirista. Cioè lo strutturalista linguistico classico, quello degli anni 20, 30, eccetera, c'è gente bravissima, insomma, poi dopo Chomsky ha fatto per tutta la vita polemiche contro questi qua, non ha mai polemizzato contro Broomfield o contro Seppi, che sono, in realtà è un po' difficile polemizzare con loro, ma ha poi polemizzato contro gli epigoni, contro insomma gli allievi, i quali prendevano, come si prende un certo campione di materiale linguistico, lo si esamina, prendiamo questa frase, la prendo io e me la ridico, me la scrivo, come si può segmentare questa frase? Voi già lo sapete, già, se sono le parole, è un po' più complicato di insomma così, però diciamo lo strutturalista linguistico prende dei campioni di linguaggio, li seziona, cerca di studiare se ci sono delle regolarità o dei modi comuni a più campioni, che possono essere usati per vari campioni e non solo per uno, e da qui trovare, diciamo, la struttura della frase. Chomsky reagì a, allora, questo dal punto di vista della, come dire, linguistica dello studio della struttura linguistica, quindi diciamo strutturalismo linguistico. Uno, descrittivismo, cioè attraverso, io per studiare la lingua non devo fare altro che descrivere il modo come sono descrivibili una serie di campioni di produzione linguistica normale. Due, dal punto di vista genetico, cioè come sorge il linguaggio negli esseri umani, semplicemente il linguaggio ha una formazione totalmente empirica, cioè il bambino non sa un cazzo, non sa nulla, evidentemente non sa nessuna lingua, e quindi viene esposto nella tenera età a una serie di produzioni linguistiche degli adulti, ascolta queste produzioni linguistiche, da queste ricava, impara la lingua. È la vecchia ipotesi degli empiristi del XVII e XVIII secolo, soprattutto inglesi, di Locke, di Hume, eccetera, eccetera. La mente è una tabula rasa, quando il bambino nasce non c'è un cazzo, non c'è niente. È l'esperienza che costruisce, che incide in questa tabula rasa, come nella tavoletta di cera che usavano i romani per scriverci sopra, incide la cosa e poi queste cose a poco diventano più o meno permanenti. Quindi, seconda ipotesi, empirismo dal punto di vista genetico. Descrittivismo dal punto di vista, come dire, culturale. Empirismo dal punto di vista genetico. Ho dimenticato una R. La teoria di Chomsky è opposta a quella strutturalista su tutti e due i punti. Partiamo dal 2, che è più facile. Anche perché è quello su cui è più difficile, almeno dal mio punto di vista, da ritorto, cioè criticare Chomsky. È l'unico pezzo di Chomsky che io adesso accetto. Voglio informarvi, per onestà storica, che avendo io fatto una tesi nel lontano anno accademico 71-72 di logica sulla linguistica di Chomsky, sono stato a lungo chomskiano, cioè essendomi formato, avevo la vostra età o poco più, insomma, 4 anni di più forse già, mi sono arrivato tardi, avendo passato il mio tempo a fare altre cose più agitate nell'Italia di quegli anni, però a un certo punto mi sono reato, anche perché non è che potevo stare 10 anni all'università, ci sono stato 10 anni grosso modo. E allora, insomma, quindi sono stato chomskiano, quindi ero convinto di questa cosa, insomma, perché sono, quindi le mie attuali posizioni, che sono risolutamente anti-chomskiano sul piano linguistico, non su quello politico, ripeto, il massimo rispetto per il Chomsky attivista politico. Ma dal punto di vista della teoria invece linguistica, ci ho messo molti anni, ma insomma quasi 20, e poi mi sono staccato da quella cosa. Quindi, no, questo ve lo dico perché può darsi che chiunque di voi pensa questo, può darsi che abbia anche un minimo di giustificazione, nel senso che può ritenere un po' bizzarro la mia insistenza e il mio accanimento contro le teorie di Chomsky. Quindi potrebbe avere una spiegazione psicologica, ve la dico prima, insomma, come i peggiori anticomunisti sono gli ex comunisti, cioè quelli che sono stati, tanto per non far nomi, Bondi, Cicchito no, perché Cicchito era uno stronzino socialista, pure quando era, infatti i Lombardi gli diedero due schiaffi in faccia quando scoprì che era membro della P2, schiaffi benedetti, secondo me. Anche io sono stato socialista, ma non del tipo di Cicchito, insomma, quando ero piccolino veramente, cioè prima del 68. Quindi potete pensare che fosse così, quindi pensatela come cazzo volete, cioè pensate che io ce l'ho con Chomsky perché ho studiato Chomsky da piccolo e mi sono dovuto liberare, in realtà, no, comunque se non avessi studiato Chomsky in tutto questo qua non lo saprei, quindi sono comunque contento di averlo studiato e non è che dico che è uno stronzo, dico è ovvio che è comunque rimane il più grande linguista del come dire, Novecento, però secondo me sostiene idee sbagliate, sono le idee sbagliate. E poi ho qualche piccola argomentazione in più che vi dirò. Allora, arriviamo dal punto 2. Sul punto 2, secondo me, insomma, ripeto che è più comprensibile, è più accettabile dal punto di vista di Chomsky. Poi però c'è un passaggio che lui fa dal 2 all'1 che non mi convince, adesso cerco di spiegarvi qual è. Allora, la critica di Chomsky all'empirismo è una critica che vale non solo per il piano linguistico, vale per qualsiasi per qualsiasi teoria diciamo empirista ed è semplice come semplice anche penso ripeto in qualche maniera condivisibile diciamo la critica è ma se la mente fosse davvero una tabula rasa come pensa se non ci fosse davvero niente se la mente del bambino non fosse predisposta per nulla come potrebbe mai in un periodo di tempo così rapido in poco più di un anno, a volte anche meno, a volte poco più, ma insomma in un periodo intorno all'anno di vita, essendo esposto a nessuna teoria, a nessuna, non studia nessuna grammatica il bimbo, sente delle frasi, sente una produzione verbale per un anno e parla quella lì, dopo un anno circa è in grado di cominciare a parlare e dopo 3 anni, nei primi dopo, tra il primo e il secondo, tra il primo e il terzo anno di vita può pure darsi, anzi sì, sicuramente la sua produzione linguistica è ancora, come dire, acerba, rozza, poco raffinata, ma dopo, diciamo, dal terzo anno di vita, sentite, i bambini parlano come gli adulti, no? Semmai sono gli adulti cretini che gli vanno, quelle palle lì che sono più. I bambini dicono ma che scemo sto qua, perché mi parla così, come se fossi un gattino o un cagnolino. Ma come gli adulti insomma, no? Hanno molte stranezze nella loro vita, questa non è l'ultima, naturalmente un'altra consiste nel votare Berlusconi, per esempio qua in Italia, che è una cosa inspiegabile, però di fatto è così, cioè, non possiamo prescindere da queste. Da questa vena di follia che agita le culture e i popoli, molte culture e molti popoli, chiuso la parentesi. Tutto rimane terribile, cioè sono sputtanato la vita. Va bene. Quindi dice Chomsky, è impossibile che un'ipotesi empirista radicale, cioè la presupposizione di un'assenza di qualunque struttura nella mente, bambino, in qualche maniera predisposta per fare in modo che lui apprenda, dice le lingue, questa ipotesi è incompatibile con i fatti, perché i fatti ci mostrano che in un breve periodo di tempo una mente ancora acerba, ancora in conformazione, un organo biologico con pochissimo tempo diciamo, di vita è in grado di produrre una performance così rilevante, cioè apprendere una lingua. Quindi dice Chomsky, non è possibile una ipotesi empirista radicale, l'ipotesi giusta è l'innatismo, cioè vuol dire il bambino ha innata dentro di sé, come potremmo dire noi, precablato, il suo cervello è già precablato, ha già delle... Naturalmente Chomsky sa bene che questa precablatura, chiamiamola, del nostro cervello è predisposta verso un range di soluzioni estremamente vasto. Voi prendete il bambino nato nel Burkina Faso e trasportato a pochi mesi dalla sua famiglia lungo tutta l'Africa su di un barcone, se riesce a sfuggire agli sceriffi di Maroni che cercano di approdarlo nel Mediterraneo, sbarca a Pantelleria, arriva con Italia, eccetera, eccetera, se se arriva qui che ha 4 mesi, 5 mesi, anche un anno, se arriva che c'è un anno ci mette un poco di più, ma a 2 anni parlerà l'italiano come un bambino nato in Italia, non ci sarà alcuna differenza, eh? La faccia è piena anche la Lombardia di persone che parlano un italiano perfetto, che hanno la vostra età, un po' di più o un po' di meno, eccetera, sono figli adottati, li vai a prendere in Etiopia, in Corea, dove cazzo vai, fanno la faccia da etiopi, coreani, eccetera, ma parlano italiano, addirittura se escono a Bergamo, con un bel accento di quelli scamacchi duri, è così, non ci sono chiesti. Allora, come risolve questa cosa ciò? E questo è il punto che a me pare invece problematico. Perché quello che arriva, allora qual è la vera funzione dell'Ulisse? Bene, se c'è una struttura, se c'è una predisposizione innata degli esseri umani, cioè dei bambini, per imparare le lingue, e se però questa predisposizione può rivolgersi indifferentemente verso una qualsiasi lingua, perché poi conta soltanto il tipo di lingua al quale viene esposto. Sapete anche come me che se un bambino viene esposto a più di una lingua nel periodo, basta che sia esposto nel primo anno di vita o entro certi limiti anche nei primi anni di vita, fino a 4-5 anni grosso modo, se viene esposto, se c'ha papà e mamma che parlano due lingue diverse o se c'ha persone che tutti i giorni, certo non se vede un pakistano una volta all'anno, ma se c'ha persone che gli parlano pakistano tutti i santi giorni come papà gli parla con l'italiano, il bimbo verrà fuori bilingue, al massimo ci metterà qualche mese in più di altri perché ha più materiale di altri bambini da dover lavorare, ma poco tempo, non anni di più, pochi mesi di più, al massimo entro un anno e mezzo, e non solo due, anche tre può imparare, neanche quattro. C'è una plasticità della mente, cioè non c'è alcun dubbio. Allora, com'è che risolve questo problema? Dice, è facile, dice lui. Vuol dire che tutte le lingue del mondo condividono qualche cosa, hanno tutte una specie di nucleo comune. Non sarebbe possibile, dice Chomsky, spiegare altrimenti questo fenomeno se non presupponendo che esista, vogliamo chiamarla struttura, chiamiamola anche struttura, dice lui, ma un funzionamento delle regole, delle leggi, quella che lui chiama insomma una grammatica universale. Una universal grammar. Questo è il primo punto del quindi. Qual è per Chomsky l'obiettivo della linguistica, della teoria linguistica? Scoprire questa grammatica universale, che ci deve essere, perché se non ci fosse questa grammatica universale non si spiegherebbe perché il bambino può imparare in breve tempo tutte quante le lingue, tutte quante le cose. Il problema della grammatica universale non è un problema nuovo, non se l'è inventato Chomsky, c'era già. Entro certi limiti tutta la linguistica ha una fin dai tempi antichi, fino da quando tanto i linguisti indiani, che non hanno influito direttamente sulla linguistica dell'Occidente perché erano conosciuti, ma già 1000 anni prima di Cristo, sulla Cina posso dirvi meno, ma credo che la Cina non abbia mai avuto una tradizione di pensiero linguistico così antica e così forte come quella indiana, ma sicuramente gli indiani ce l'avevano. Panini, oltre ad essere il grande editore di figurine che voi sapete, anche il nome scamato di questi fotografi, Panini, ma con delle A lunghe, forse legge diverso, non lo so, però Panini, scritto così, quindi legge Panini. Allora, Panini, per esempio, era un grande grammatico indiano, vissuto intorno al 1200-1000 a.C., e quindi uno dei autori di una delle prime descrizioni del sanscrito, che era la lingua che si parlava in India in quel periodo. Quindi sia i grammatici indiani nel Re Cristo, sia Platone, che non ci ha aiutato molto, ma Aristotele in parte, soprattutto gli stoici, che sono quelli che sono i primi che hanno sviluppato le teorie linguistiche, per poi andare avanti, tutti i linguisti medievali, San Tommaso, eccetera, eccetera, c'era La questione si chiamava all'epoca, la questione degli universali. Era una questione che non si poneva soltanto in linguistica, ovviamente, poneva da tutti i punti di vista, cioè esistono delle strutture, dei concetti, dei contenuti della mente che siano comuni a tutti gli esseri umani? Ovviamente il primo che aveva dato una risposta di questo tipo era stato Platone nella filosofia antica, e con Platone aveva risposto sì, certo che esistono. Esistono, sono quelle che lui chiamava idee. Le idee non sono ho una buona idea, le idee per Platone sono quelle che più tardi Jung avrebbe chiamato archetipi, cioè sono delle figure, delle figurazioni, quelli che noi più modestamente e con molta più cautela direi possiamo chiamare concetti. Dopo Platone idea è diventato un termine scivoloso e pericoloso, perché ogni volta che lo si pronuncia, se poi uno non è platonico deve fare un disclaimer, deve dire no, però guarda che io uso idea, allora è meglio che non si usa il termine, e per esempio io non lo uso, che non sono platonico, anzi sono antiplatonico, e quindi uso concetti, perché invece il concetto è qualcosa che porta con sé una idea di genesi, è qualcosa che si forma, che viene concepito, c'è una specie di materiale, qualche cosa che io prendo, confino, lo metto dentro un confine, dico questo è il mio concetto. Ovviamente i confini, siccome li ho creati io, li posso cambiare quando cazzo voglio io. Le idee di Platone non potevano venire cambiate, perché erano lì, stavano lì per l'eternità. È come per i cristiani che il mondo non si può cambiare perché l'ha creato Dio. E quindi invece se non c'è nessun creatore, cioè tutte le cose che fanno gli esseri umani sono transitorie, quindi possono essere modificate. E in questo modo possono essere, e di fatto lo sono, i concetti vengono costantemente modificati. Però i filosofi medievali si ponevano che esistono degli universali, e allora se aggiungiamo una A abbiamo il neutro plurale dell'aggettivo latino universale, gli universalia sono gli universali, plurale neutro, universale neutro, universale universalis, plurale universalia. Gli universalia, cioè i concetti universali o le idee platoniche o le strutture della mente che sono uguali per tutti gli esseri umani, è ovvio che per il filosofo medievale, che era un filosofo cristiano, questo deriva dal fatto che siccome siamo una creazione di Dio, Dio ce l'ha gli universali, perché è lui il custode degli universali. Anche Platone, pur senza avere una idea di un Dio personale, però parla spesso della divinità del Dio in quanto tale, insomma, quindi poi è stato relativamente facile prendere Platone e trasportarlo nel cristianesimo, perché aveva già una, in realtà sono le teorie neoplatoniche, non proprio per mettere quelle platoniche. Platone in quanto tale aveva qualche piccola assicurazione, qualche piccolo meccanismo difensivo contro questa evoluzione, però poi è stato distrutto totalmente dal neoplatonismo e poi da questo incontro serale del neoplatonismo con il pensiero giudaico che si chiama cristianesimo. Il cristianesimo è questa cosa, è la fusione della struttura di pensiero neoplatonica diffusa in tutto il Mediterraneo dall'ellenismo, cioè dopo la conquista di Alessandro Magno, dopo il III secolo a.C., con i modi di pensare molto eccentrici e molto strani di queste piccole, di queste poche e un po' sfigatine tribù che abitavano l'attuale Stato di Israele, anche un po' più là, anche oltre il Giordano stavano, e che avevano avuto un breve momento di gloria 800 anni prima di Cristo, ai tempi di Davide, poi di Re Salomone, poi erano stati, un breve periodo, però era una popolazione assolutamente marginale rispetto alle altre che c'erano, in Prosoli c'erano popoli, però tutti gli altri avevano tutti una struttura, quindi era una struttura stramba, uno tra i pochi, forse gli unici, che adoravano un unico Dio invece che tanti dei, e quindi si consegnavano mani e piedi legati nelle mani di un unico Dio, perché ovviamente capite bene che un unico Dio è un Dio dispotico, tirannico, cioè c'è solo lui, non c'è nessun altro che gli può usare, cioè Giove è molto meno pericoloso di Genova, no? C'ha un po' di contrappesi, ce l'ha, insomma, qualcuno dice arriva sua moglie, gli rompe i coglioni, e poi c'è le figlie, deve stare attento ai figli, deve stare, insomma, cioè il politeismo è una, diciamo che di Giove molto più tollerante di un monoteismo, perché c'è un equilibrio di poteri e quindi, insomma, in qualche modo, poi sì, certo, se vogliono farsi del male ce ne fanno comunque, anche così, la cosa migliore dal punto di vista è che proprio diciamo non avere nessuno di Dio, perché più che guai non hanno fatto nel corso della storia umana, insomma, quindi effettivamente, cioè, guarda i loro effetti, se fanno tanti danni, se scusa, togliti, perché... Però, diciamo, dovendo proprio scegliere, cioè, dovendo scegliere se essere religiosi proprio, allora cioè, la cosa migliore è il buddismo, che è una religione in cui Dio non c'è. Non c'è altro Dio buddista. Però ognuno sceglie come cazzo di fare a lui, non voglio mica dire che sia. Dico io dal vista chiusa la parete, allora gli universali. E voi quindi sapete che... La filosofia medievale diede due grandi risposte. La domanda era an universalia sint et si sunt quod sunt. Se gli universali esistano e se già esistono, che cosa siano? E la grande scuola realista, quella di San Tommaso, eccetera, eccetera, rispose: gli universali sono il riflesso del mondo nella mente. Il motto aristotelico di San Tommaso nella sua teoria della conoscenza, quando si chiede San Tommaso che cos'è la conoscenza, risponde: scienza est adequatio intellectus et rei, è l'adeguamento dell'intelletto alla cosa. La cosa esiste, io conosco una cosa quando mi sono adeguato, quando ne ho fatto un calco fedele. La cosa è lì, esiste indipendentemente da me, io faccio come fare un calco, certo, e questo è, e quindi sono universali. Siccome il mondo è stato creato da Dio e Dio è il paragone, eccetera, eccetera, è lui quello che ha messo nel mondo una varietà di esseri, i quali però hanno dei collegamenti tra loro, e questi collegamenti l'uomo ci può arrivare con la forza della sua, diciamo, ragione. Le categorie attraverso le quali io posso descrivere il mondo, quindi creare delle relazioni privilegiate tra oggetti e avvenimenti, quindi oggetti, relazioni, esseri, non solo oggetti bruti, puri, come gli immateriali, ma appunto oggetti, idee, gli universali sono questi. Naturalmente c'erano anche, però, perché non è che non c'è mai stato il pensiero unico, per fortuna, nella storia, diciamo, dell'uomo. Il pensiero unico è sempre un progetto che ovviamente qualcuno persegue, anche oggi sapete che si persegue un progetto di pensiero unico, per esempio che il capitalismo sia la forma economica migliore, più bella che lo si prende, eccetera, eccetera. Però c'è sempre qualcuno che invece non ci sta a questa cosa. Quindi non c'erano neanche allora, anche allora c'erano i dissenzienti. I dissenzienti medievali però erano ovviamente minoritari, alcuni di essi finirono sul rogo perché non era così semplice in quel periodo lì, diciamo, dissentire, cioè comportava qualche conseguenza a volte diciamo materiale. Questa corrente filosofica minoritaria della filosofia scolastica, diciamo, che si rifaceva agli antichi scettici, agli scettici greci, quindi a Pirrone, Diogene, Diogene era un cinico più conosciuto, comunque insomma cinici e scettici erano simili, aveva un'altra risposta: non gli universali sono il riflesso della mente di Dio, ma questa è la storia latina, questa non la storia latina, non me la ricordo, quindi devo mettere italiano. Quello che la storia latina dice: universalia sunt flatus vocis. Gli universali esistono, sì, ma sono emissioni di fiato, sono parole, sono espressioni linguistiche. la teoria di Roscellino, per esempio, che è uno dei più degli esponenti più importanti di questa corrente, chiamata nominalista. Gli universali esistono, sì, ma sono dei nomi. Non c'è nessuna struttura, non c'è nessuna struttura universalizzabile nel mondo. È il linguaggio che più o meno arbitrariamente crea dei contatti tra, diciamo, le cose, categorizza il mondo e quindi crea gli universali. Gli universali sono un prodotto della mente umana, un prodotto che certamente ha a che fare con alcune caratteristiche del mondo, ma la struttura del pensiero umano non riflette la struttura del mondo. Il linguaggio ha un grado più o meno maggiore, più o meno grande, scusate, più o meno grande di autonomia rispetto al mondo. Questo vuol dire l'affermazione di Roscellino, che universali assunt flatus vocis. Gli universali sono un'emissione di fiato, un'emissione di voce, sono le parole. È la prima volta, no, ma insomma è una delle volte nella storia del pensiero umano in cui viene avanzata con una certa forza una ipotesi anti-universalistica, anti-assolutistica. Possiamo dire, sfidando le ire di Benedetto XVI, relativista. È la prima volta che si avanza un punto di vista relativista, cioè che viene, diciamo, soggetto. Naturalmente Chomsky non crede in Dio, naturalmente, è ateo, però nella sua, come dire, teoria c'è una sopravvivenza del tomismo, di questa risposta. Chomsky non si è mai impegnato Chomsky non ha mai preteso che la sua grammatica universale sia un riflesso del mondo oggettivo, ma nella misura in cui l'essere umano è un prodotto dell'evoluzione naturale, Homo sapiens è un prodotto dell'evoluzione, se nella sua mente c'è davvero un qualcosa chiamato grammatica universale, cioè se tutte le lingue del mondo hanno davvero una struttura nascosta, attenzione, nascosta, perché finora nessuno, neanche Chomsky, è stato in grado di trovarla, questa grammatica universale. Per dire grammatica universale significa descriverla, no? Una grammatica è un insieme di regole, vuol dire le frasi si generano a partire da queste regole, così, così, così, così, così, così. Se non trovo le regole, posso avere enunciato il fatto che ci sia la grammatica universale, ma non l'ho in realtà mai davvero provata. In realtà, se Chomsky dice che c'è una grammatica universale, è perché, e questa cosa lui l'ha sostenuta in varie occasioni, la grammatica universale non è nient'altro che un riflesso della natura umana, cioè di una struttura, di un insieme di descrizioni o di regole che strutturano la mente degli esseri umani e che sono uguali per tutti gli esseri umani. Grosso modo è la stessa tesi, sono tesi analoghe a quelle che avevano sostenuto prima Freud e poi Jung all'inizio del Novecento, nella loro riforma della, diciamo, psicologia, delle teorie, come dire, diciamo, psicologiche, quando Freud enuncia la sua teoria tripartita della psiche, c'è l'ess, c'è l'id, c'è l'inconscio, diciamo, poi c'è l'io, l'ego, e poi c'è il superio, eccetera, eccetera. Quando Jung la rielabora e dice in realtà la mente umana pensa sempre secondo figure eterne, immutabili, uguali, infatti le ritroviamo, bla bla bla, in tutta la storia del mondo, gli archetipi, i grandi, diciamo, archetipi. Quando Freud tenta di convincerci che è possibile spiegare lo sviluppo psichico di un bambino tanto occidentale quanto del Burkina Faso facendo riferimento al mito di Edipo, non gliene fregava niente a Freud che il bambino del Burkina Faso questo Edipo non lo conoscesse, non l'avrebbe mai neanche incontrato da grande, perché per Freud era una cosa oggettiva, tutti i bambini, libido, bla bla, si innamorano della mamma, poi sono gelosi del papà, e tutta questa serie di belle storielle che ci ha raccontato, come dire, Freud, e che tutte quante, quelle di Freud come quelle di Jung, si infrangono contro dei dati empirici, contro il fatto che le culture sono diverse, ed essendo diverse le culture creano delle forme mentis diverse. Non è affatto detto che tutti i bambini del mondo siano passati attraverso una fase del complesso di Edipo. Ammettiamo che sia vero per tutti i bambini dell'Occidente, è dubbio pure questo, ma ammettiamo pure che dai greci a oggi quell'insieme di eventi storici che, partendo dalla guerra di Troia, arrivando fino alla crisi della Stramicenea, la nascita della Grecia classica, Alessandro Magno, Gesù Cristo, San Paolo, Nerone, il Medioevo, alla fine arriviamo all'epoca moderna e siamo quello che siamo per questa cosa, cioè i nostri bambini sono tutti il complesso di Edipo. Vabbè, diciamo così. Ma il bambino del Burkina Faso, dove la trovate il complesso di Edipo? Perché dove sta? È un presupposto totalmente sganciato da ogni riferimento empirico, no? Freud non ha mai, si è sforzato per tutta la vita, e peggio ancora nell'ultima fase della sua vita, quando ha scritto i grandi libri di filosofia della storia e di grande mentalità, quindi Mosè e il monoteismo, cioè mentre per tutta la fase psicologica della sua cosa, sono cose più o meno discutibili, ma che hanno una certa... Poi quando comincia a fare Totem e Tabù, Mosè e la regione, cioè quando prende queste strutture, non a caso presa dal pensiero ebraico, che lui era, come dire, diciamo, ebreo, e ne fa degli universali, ne fa delle cose. Ora, chi sostiene che esiste questa natura umana non si limita a sostenere una cosa sulla quale non credo che nessuno possa non essere d'accordo, cioè che c'è qualcosa che ci accomuna, che accomuna tutta la specie, diciamo, umana, ed è la sua biologia, ed è la sua base biologica, no? La fenomenologia, il colore della pelle, la forma degli zigomi, eccetera, eccetera, sono degli epifenomeni che sono responsabili per una frazione infinitesimale, piccolissima, del complesso non solo del nostro genoma, ma non solo del nostro, diciamo, genotipo, ma anche dei fenotipi possibili, cioè delle concrete realizzazioni di questo genotipo ideale. Il genotipo umano è unico, su questo non c'è alcun dubbio, ma siamo sicuri noi abbiamo il genotipo, e sappiamo che il genotipo, non devo perdere la conferenza, ragazzi, scusate, no, non c'ho tempo. Sappiamo che questo genotipo è unico. Andiamo a vedere come questo genotipo, cioè attenzione, vi metto in guardia adesso, siccome da quando è stato scoperto il DNA, che a me sono stato nel 1954, quindi non ha fatto tantissimi danni, ma da quando Craig Venter ha fatto la sequenza del genoma umano, meno di 10 anni fa, non credo più. Genotipo vuol dire la doppia elica, vuol dire il DNA. Il genotipo è l'insieme di tutte, è come dire, è il prodotto delle relazioni tra questa base indubbia che c'è, diciamo, di queste molecole di acido deossiribonucleico organizzate con quella struttura a doppia elica, eccetera, eccetera, e le pressioni ambientali subite da questo DNA, che chissà come cazzo era 4 milioni e mezzo di anni fa, in tutti questi 4 milioni di anni. Questo è il nostro genotipo, non è il DNA. Un genotipo non sta nel deserto, il DNA non è stato in frigorifero per miliardi di anni, poi arriva, ah scusate, sono il DNA, buongiorno, posso fare gli esseri umani? Ecco, bene, fai gli esseri umani. Cioè, il DNA ha prodotto dei fenotipi, i quali fenotipi, cioè noi, non è un'offesa, siamo tutti fenotipi, qua sono un tot di fenotipi, no, siamo i fenotipi, in realtà sono delle classi un po' più piccole, però forse qua ce n'è. E qua ce n'è almeno 3 o 4 di fenotipi diversi, almeno. Comunque, diciamo, ha preso questi, e questi fenotipi sono vissuti in una storia, hanno reagito e interagito con un ambiente. E cosa ne sappiamo noi che e già adesso si comincia a fare? Lo sappiamo tanto bene questo, che quando vogliamo fare la storia genetica, la vera storia genetica di una specie o di un gruppo all'interno di una specie, non possiamo usare il DNA, il DNA in quanto tale, il DNA di tutte le diciamo, cellule, di tutta la cellula. Dobbiamo andare a prendere il DNA di una piccola parte della cellula, il DNA dei mitocondri, cioè di quelle palline del cazzo che stanno dentro al diciamo, nucleo, e che ha una replicazione esclusivamente matrilineare, cioè per sua fortuna esclude l'intervento di quei pasticcioni di quella parte delle cellule che sono rimasti, che più che casino non hanno mai fatto nella storia dell'umanità, e attraverso quello vai a vedere la cosa. Ma il DNA in quanto tale ha subito modifiche, ha combattuto contro un ambiente, questa roba di avere questo determinismo genetico, che capito? Adesso abbiamo DNA, sconfiggeremo le malattie, ma dove sconfiggerete le malattie? Non esistono malattie con una causa, non esistono, sono delle eccezioni, ne hanno trovate 4, 5, 10, che prevalentemente la causa è quel gene lì, quel tratto di diciamo DNA. Tutte le malattie, il cancro non esiste, il cancro non è una malattia, l'AIDS non è una malattia, sono famiglie di comportamenti, come dire, morbosi, che derivano, la cui storia, eccetera, c'ha una storia ambientale, non ci sono crisi, ma se no perché vicino alle raffinerie di petrolio l'incidenza delle leucemie sarebbe da una volta e mezzo al doppio di quella, diciamo, normale? Perché cioè, è una cosa senza, è una come dire, una presunzione di diciamo deterministica, no? Per cui va bene, allora abbiamo chiarito che genotipo non vuol dire soltanto DNA, però c'è qualcosa che si chiama genotipo, cioè è una struttura che comprende il diciamo, DNA e le relazioni di questo DNA con i suoi stessi prodotti, cioè con quello che ha prodotto lui a livello biologico nel singolo individuo e poi nella specie più in diciamo, generale. E poi quando andiamo a vedere diciamo, la ricchezza dei fenotipi, quindi l'insieme della popolazione umana, vediamo delle caratteristiche fisiche, fisionomiche, biologiche anche da un punto di vista fenomenico diverse. Ma la cosa più importante, la causa più importante di diversità che c'è tra gli esseri umani, sapete bene che non è questa, sono i comportamenti. I comportamenti nella storia degli esseri umani sono i più diversi, i più disparati, le culture. È la cultura, sono le culture, non esiste la cultura, non c'è mai stata la cultura umana. Le culture sono differenti. Quindi questo è un problema, bisogna chiaramente spiegarlo. Cioè, questo pone una sfida alla conoscenza, diciamo, scientifica. Come mai da un unico genotipo si sono creati dei raggruppamenti di fenotipi chiamati culture, cultura 1, cultura 2, cultura 3, cultura N, in così grande numero e così differenti tra loro. Non totalmente incomunicabili, no, ma neanche totalmente sovrapponibili, e in cui le comunicazioni funzionano a gruppi al loro interno, la cultura 1 con la 2, la 2 con la 4, la 5 con la 7, la 6 con la 8, con la 9, con la 10, certo, c'è qualche cosa che consente una comunicazione, se no non sarebbero nate poi le culture, perché in realtà tutte le culture storicamente derivano probabilmente da diciamo stati precedenti nei quali pezzi di quelle culture si sono combinati per creare quelle nuove, quindi non più. Ma come dire, a livello fenomenico, a livello delle conoscenze empiriche che noi abbiamo, l'unica cosa di cui siamo, come dire, sicuri è che l'unica cosa che accomuna tutte le culture mai comparse sulla faccia della terra nel corso della storia e tutte le culture, anche le tue culture oggi esistenti, l'unica cosa che siamo sicuri che abbiano in comune è questo genotipo, cioè è, diciamo, l'unità biologica della specie, no? Quello che si chiama in termini, diciamo, scientifici, genotipo. Le teorie ogni teoria universalista, che sia la psicanalisi, che sia la linguistica di Chomsky, che sia qualsiasi, le teorie universalistiche pretendono che tra l'insieme della varietà dei comportamenti culturali della specie umana empiricamente verificabile e la sua unità a livello biologico ci sia un secondo livello unitario, specificamente culturale. Nelle teorie universaliste il genotipo produce una sorta di struttura culturale, già culturale, quindi questo adesso è il nostro, come dire, problema. Da un certo punto di vista è ovvio che non c'è una differenza di fondo tra cultura e biologia. La nostra la cultura non è altro che la nostra biologia, il nostro modo. Però il modo che ha di manifestarsi il comportamento, diciamo, la nostra unità, come dire, biologica, quando entra in contatto col mondo, quindi con condizioni ambientali differenti, con storie differenti, col fatto che in un posto fa caldo e in un altro fa freddo, col fatto che l'uomo abita tanto al polo nord o poco, come dire, vicino quanto all'equatore, col fatto che abita, che sta lì quando piove e quando c'è il sole, che sta lì in un'isola e in terraferma, sul mare, la varietà delle condizioni ambientali, non, diciamo, genotipiche dell'uomo, e le conseguenze della storia, le conseguenze dello svolgersi nel tempo di questo, diciamo, genotipo. Questo porta al fatto che la manifestazione di questa unità biologica noi sappiamo empiricamente che è differente, che porta a delle... Perché? Perché vuol dire che dentro quel genotipo, di questo siamo totalmente sicuri, dentro a quel genotipo c'è un insieme di possibilità, una ricchezza potenziale che non c'è in nessun'altra specie umana, in nessun'altra specie animale sulla faccia della Terra. Perché? Perché l'uomo è l'unica specie animale che non ha nicchia biologica, la cui esistenza non è legata a un particolare ambiente. La povera zebra, non dico al polo nord, ma neanche in Inghilterra ci sta, cioè ci stanno quelle dello zoo perché gli creano un ambiente fittizio simile a quello lì, comunque non stanno, come gli animali dello zoo non ci stanno bene, questo voi lo sapete come me e meglio di me, sono infatti li stanno togliendo tutti perché è una crudeltà inutile per fare, no? Perché non esiste, perché sono legati a questo, diciamo, genere di cosa. Una volta che una specie sia diffusa in varie zone del mondo e sia la stessa specie, il suo comportamento è uguale. La specie Felis Leo si comporta uguale, il leone, non, il leone maschio non fa un cazzo e la femmina, fa tutto e fa la casa, eccetera, eccetera, tanto nel Serengeti quanto nel deserto dei Boscimani. Non cambia il comportamento di una specie animale una volta che questa specie viva in diverse zone, anche lievemente diverse dal punto di vista ambientale e sicuramente diverse dal punto di vista storico. Gli animali non hanno storia, non che non ce l'hanno del tutto, ce l'hanno ma in senso molto diverso dal nostro. La pressione della storia sugli animali non crea diversità, differenze, evoluzione di comportamento in modo così rapido e in modo così diversificato come crea nell'uomo. Quindi è evidente che quel cazzo di genotipo, che quella unità biologica della specie, comprende dentro di sé un insieme di potenzialità molto più ricche di altre specie. Ma attenzione, appunto di potenzialità, come faccio io, come faccio a imprigionare queste insieme di potenzialità che sono al puro livello biologico, già in una struttura, in un'unica struttura culturale, come faccio a dire, signor Chomsky, come posso dire che il fatto che il bambino, ogni bambino di essere umano, ogni cucciolo di essere umano ha la potenzialità, la possibilità di imparare qualunque lingua a cui venga esposto, perché deve voler dire che esiste una grammatica universale? Dove sta questa grammatica universale? Questo fatto mi autorizza a dire soltanto che il bambino ha la potenzialità di imparare il linguaggio, quindi che tutti gli esseri umani hanno una facoltà di linguaggio, questo è ovvio, ma una facoltà di linguaggio una language faculty non è una universal grammar. Una facoltà di linguaggio non ha strutture, non è descrivibile positivamente come un qualche cosa, A, B, C, D, E, non è algoritmizzabile né letteralmente né metaforicamente. Lungi da me accusare diciamo Chomsky di avere una concezione algoritmica o diciamo riduttiva del linguaggio, anche se devo dire che in gran parte dei suoi scritti questa cosa c'è, perché poi quando uno pretende di avere delle regole che generano, dalla quale Chomsky dice ci sono delle regole perché, ed è una cosa vera, giusta, certo, dice la caratteristica del linguaggio umano è che con un insieme finito di simboli può produrre una infinità potenziale di produzione linguistica, di fatti linguistiche. Se voi non mettete un limite alla lunghezza della vostra catena di emissioni sonore o di simboli scritti, noi con 27 suoni, 28 suoni, sì e no, quindi 28 lettere o anche meno dell'alfabeto con 500.000 parole, ed è un numero finito, molto alto il numero di, come dire, parole, ma non è un numero, l'inglese ne ha il doppio, diciamo anche un milione, va bene, anche con un milione di parole, noi abbiamo una produzione infinita di la mia, come dire, critica è che il passo di Chomsky è in debito. L'evidenza empirica ci dice soltanto, l'unica cosa che noi possiamo concludere è che le caratteristiche particolari del genotipo umano sono tali che a livello fenomenico, empirico, creano una pluralità molto grande, molto vasta, di realizzazioni storicamente concrete di quel genotipo, che sono le culture. Le culture quindi anche ovviamente i linguaggi, le lingue. Ma ipotizzare a livello direttamente esecutivo, cioè direttamente tradotto dalle potenzialità del genotipo, alla interazione con l'ambiente e con le parole, presupporre l'unicità a livello culturale di qualche cosa nell'umanità è indebito, è una... Non nego che non possa esistere, nego che sia necessariamente inferibile, cioè che sia una necessità, cioè che di necessità le cose devono andare così, che dato che abbiamo un unico genotipo e tantissime culture differenti a livello, allora vuol dire che ci deve essere in mezzo un livello culturale che unifica. Come non è detto che ci siano gli universali in senso oggettivo. Come non è detto che ci siano degli universali. Non è detto che le caratteristiche, insomma, detto in modo più, come dire, banale, non è detto che tutti gli uomini pensano nello stesso modo, che tutte le culture pensano nello stesso modo. Non abbiamo tutte le stesse categorie. Quando un grande, diciamo, linguista, che si chiamava Benjamin Lee Whorf, era un chimico, era un ingegnere chimico che però aveva girato l'America, diciamo, a lungo, negli anni 50 del Novecento, quando si mise a studiare una serie di lingue indiane, di lingue dei, diciamo, nativi d'America, e tra queste in modo particolare la lingua Hopi, si rese conto, per esempio, che gli Hopi non avevano lo stesso sistema dei tempi verbali dei nostri verbi, presente, passato, futuro. E studiando meglio, diciamo, la cosa, dire che questo aveva come conseguenza, o era la conseguenza di una struttura mentale degli Hopi differente, per cui l'indiano Hopi non concepiva casca un libro, una volta che è finito, per me è passato, no? Il libro è, diciamo, caduto. Se racconto domani dirò cadde, forse dirò è caduto, è lo stesso, ma se fossi siciliano o se fossi napoletano forse direi cadde. Anche toscano. E anche toscano, usano i tempi in modo più preciso della realtà. Comunque diciamo cade, è caduto. C'è un passato, no? Ecco, per esempio, per Lopi, molto ovviamente, Lopi non userebbe il tempo passato, perché il fatto che il libro sia ancora lì, lui sia stato testimone di questa cosa, e ci sia stata una modificazione che in qualche modo viene traslata nel presente, perché prima il libro non c'era, lo faccio cascare qua, questo tavolo è diverso ora da come era prima, allora probabilmente Lopi... Fare un esempio banale, stupido, cioè Walsh ovviamente lo spiega molto meglio, ma insomma, in qualche modo ogni lingua, è probabile che ogni lingua porti con sé non solo una grammatica diversa, ma una struttura di pensiero diversa, un modo di pensare diverso. Dove stanno gli universali? Anche le cose che a noi appaiono, diciamo questo per diciamo, sfidare il filosofo che nell'epoca moderna più di altri ha contribuito alla fondazione degli universali, che è Kant. Quando Kant spiega spazio e tempo sono le categorie, non sono cose oggettive, il passo avanti di Kant rispetto a concezioni filosofiche come le precedenti è grande ed è importante, perché Kant prende alcuni concetti che erano apparsi nella storia precedente come una caratteristica del mondo, per esempio lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo è il mondo, che è, no, in questo caso non è, è la nostra mente che è fatta così. Fa un passo avanti, ma lo fa timido, lo fa molto timido. Perché? Perché mette in discussione il carattere oggettivo di spazio e tempo e dice sono soggettivi, ma non ne mette di solo il carattere universale. Dice però la mente umana è fatta uguale in tutti gli esseri umani e quindi l'europeo, l'88, lo Hopi, tutti gli esseri umani del mondo vedranno spazio e tempo nello stesso modo. E probabilmente non è così. Se l'aborigeno australiano disegna delle carte geografiche che per lui vanno bene, funzionano e gli servono come mappa, e noi europei non ci capiamo un cazzo. Se lo stesso aborigeno australiano messo di fronte ad una foto, la prima volta che gli fate vedere una foto, non ci capisce un cazzo, come un gatto, come un cane, un gatto che non capiscono né la foto né la televisione né niente, perché sono superfici, colori che si muovono, non sono figure come sono per noi. E una qualche ragione ci sarà. Dove stanno gli universali? Dove sta la grammatica universale? Dove stanno le categorie universali, generali della psiche? Gli esseri umani guardano, vedono il mondo tutto. Gli umani non vedono il mondo tutti nello stesso modo. Gli esseri umani non vedono, non percepiscono, non si rapportano al mondo tutti nello stesso modo. Le potenzialità sono comuni. Quindi all'interno di questo genotipo c'è evidentemente qualcosa che ci accomuna tutti dal punto di vista linguistico, e che è la facoltà di linguaggio. La facoltà di linguaggio è biologica, fa parte del genotipo, è ovvio. Se non ci fosse questa, sarebbe inspiegabile che tutti i bambini poi imparano tutte le lingue. Ma è arbitrario, è un passo in più, non è richiesto dall'insieme dei dati che abbiamo, identificare questa facoltà di linguaggio con una grammatica universale. Una grammatica universale implica una struttura descrivibile, positivamente descrivibile, un insieme di regole, delle parole che descrivano dei concetti, dei funzionamenti. Non è detto che quella facoltà di linguaggio si traduca in un insieme di procedure, o neanche di categorie, o neanche di concetti, uguale per tutti gli esseri umani. Detto in altri termini, tutte le concezioni universalistiche, mi spiace, ivi compresa la più importante e la più influente di queste, che è il cristianesimo, tutte le concezioni universalistiche in realtà sono concezioni fortemente riduttive delle potenzialità dell'essere umano, perché pretendono di incasellare in una struttura, perché c'è, Chomsky è 40 anni che lavora su questa cosa, ha prodotto varie volte diverse regole, non una vera e propria grammatica, ma non è che è uno stronzo, quindi un po' di cose le ha fatte, ha tirato fuori delle regole, per esempio una regola chiamata del VH, che secondo lui spiegherebbe il modo in cui si formano le frasi interrogative a partire da quelle dichiarative in tutte le lingue. Anche alcuni dei suoi allievi, dei suoi discepoli, c'è gente che condivide con lui questa fiducia nella grammatica universale, ha obiettato, e sono stati trovati già parecchi esempi di lingue diverse ovviamente da quelle. Per le lingue indo-europee funziona per tutte, certo, quindi per l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco, il danese, il russo, il persiano, l'indiano antico, una parte delle lingue indiane, funziona quella roba lì. Ma non funziona per il cinese, per esempio, non funziona per altri col coreano. Diciamo, sinora alcuni critici sostengono che tutte le pretese regole della grammatica universale trovate da Chomsky non siano che delle generalizzazioni dell'inglese o delle lingue europee. Le lingue che condividono un'origine comune, è ovvio che hanno, che possono avere anche una struttura. Tommaso, non è detto, perché può anche darsi che pur avendo un'origine, però è più facile trovarlo, è ovvio, però non è detto che automaticamente debba essere così, perché può anche darsi che tante, per esempio l'ungherese, noi non sappiamo bene quale origine abbia, ma supponiamo che sia collegato, come pensano alcuni, alla famiglia ugrofinnica, che la famiglia ugrofinnica sia collegata con quella uralo-altaica, che è quella del turco. Come mai ungherese e turco oggi sono anche dal punto di vista grammaticale così diversi? Cioè, perché evidentemente, anche se hanno anche un'origine comune, se passi secoli, millenni in condizioni diverse da una dall'altra, quando poi perché oggi sono comunque vicini turchi e diciamo ungheresi, ma mettiamo che abbiano vagabondato per le steppe per migliaia di anni e quindi ti portano, però diciamo se un ceppo comune c'è, se un'origine comune c'è, le lingue indoeuropee hanno tutte strutture molto simili. Il russo, il latino, il greco, tutte le lingue indoeuropee sono quelle che hanno un'origine europea, e quindi compreso il sanscrito e una parte, cioè da un certo punto di vista anche la lingua hindi e il persiano, chiaramente, che è fatto uguale. La struttura è sì, lì ci sarà verbo, complemento, soggetto, l'articolo ci può essere o no, gli slavi non ce l'hanno, quelli ce l'hanno, però le robe, quelle che erano le parti del discorso, ma queste parti del discorso non funzionano allo stesso modo. Quando Worf studia lo Hopi, io devo dire, perché vi parlo di Worf, perché Worf è quello che mi ha, dopo tanti anni che sono giochi, è quello che mi ha aperto gli occhi, ho detto, ma allora non è così come io avevo sempre pensato. Dopodiché mi rendo conto che voi potete avere un programma, perché non ho studiato l'Hopi bene, non mi sono messo studiato, ho dei limiti anch'io perché faccio tante cose nella vita, non è che mi sono messo a studiare le lingue come avrei dovuto forse, se volete. Però insomma, diciamo, poi comunque ho letto tante altre cose dopo, e quindi mi sono, diciamo, convinto che che questa pretesa che il livello della potenzialità si traduca in una effettiva struttura è una pretesa infondata, che non ha fondato, cioè che ci vogliono, allora, detto in altri termini, l'insieme di condizioni empiriche, sperimentali o empiriche, avanzato da Chomsky per sostenere la sua ipotesi della grammatica universale è insufficiente. Non basta quello che dice lui, non basta il fatto che il bambino generico messo di fronte a una comunità linguistica diversa impari la lingua di quella comunità indifferentemente, senza nessuna, certo. Perché questo può essere spiegato anche senza l'ipotesi di una grammatica universale. In altri termini, io oggi rifiuto l'ipotesi di una grammatica universale in virtù del rasoio di Occam. Il rasoio di Occam, tutti sapete il rasoio di Occam, no? Entia non sunt multiplicanda preter necessitate. Gli enti non devono essere moltiplicati al di là di ciò che è necessario. Se io posso spiegare una cosa usando A, B, C, non è detto che devo aggiungere I, E, F. Se mi bastano A, B, C. Quindi se il ricorso a un qualche cosa, a una possibilità che io chiamo facoltà di linguaggio e che penso sia interna al livello unitario biologico della specie umana, cioè al genotipo di Homo sapiens, se questo è sufficiente per spiegarmi il fatto che i bambini imparano le lingue e imparano le lingue partendo non da un insieme di regole o di teorie, ma da una esposizione a una esperienza di apprensione, diciamo, di comunicazione linguistica. Che fatica. No, nel senso che vedevo io, capisco i vostri volti e insomma vedo le perplessità e le cose, che quindi quando vedo che la roba è non è stata accolta, poi dopo, perché questo non vuol dire che mi sta benissimo che alcuni di voi conservino dubbi o poi, come dire, abbraccino anche il punto di vista diverso. La cosa importante è che io mi sia spiegato sufficientemente e che abbia nel 1972, se non vado errato, Noam Chomsky incontrò nella città olandese di Eindhoven, maledetto, quando? Perché non ci metti là? Nel 71, sbagliato. Allora, nel 71 Chomsky incontrò nella cittadina olandese di Eindhoven, che è una sede universitaria, importante dell'Olanda, uno di quelli che all'epoca era tra i rappresentanti più importanti del pensiero non universalista o anti-universalista europeo, che si chiamava Michel Foucault. Michel Foucault adesso è morto, Chomsky è ancora vivo invece, e qui loro discussero proprio su questa questione della, diciamo, come dire, natura umana. E fu un bel dibattito, perché nonostante qualche diplomazia di troppo, ad alcuni di noi sarebbe piaciuto che Chomsky e Foucault si fossero massacrati in modo più esplicito. Le condizioni c'erano tutte, cioè Foucault è uno dei, è stato nel, diciamo, nel Novecento uno dei filosofi più radicalmente relativisti che ci sono stati, ha passato tutta la sua vita a demolire l'idea che ci fossero gli universali di qualunque tipo, anche quelli più amati a sinistra, dico questo perché Chomsky è stato uno che nella sua vita non ha mai scisso la dimensione della, diciamo, ricerca da quella anche dell'intervento politico, fatto a modo suo, ma come tutti sanno Foucault era omosessuale e infatti fu uno dei primi a morire di AIDS nell'Europa nel 1984, e però per esempio non ha mai fatto politica nel modo in cui la facevano i gruppi omosessuali, anzi ha sempre criticato il modo in cui i gruppi omosessuali l'hanno fatta, però ha fatto politica anche su quello, ha fatto politica in senso lato, dico, perché tutta la sua azione culturale aveva di per sé una valenza, come dire, politica, anche quando non sembrava. Anche quella dell'ultima fase, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo, nel pieno della sua, diciamo, le sue opere più importanti, dalle parole e cose, a Sorvegliare e punire, e poi all'archeologia del sapere, insomma, le opere fra il 65 e il 75, in quei 10 anni lì. Poi ha cominciato con la volontà di sapere, è cominciata una fase successiva che è durata 8 anni, perché poi è morto, e l'ultimo Foucault è un po' forse diverso. Ma insomma, diciamo, il Foucault, diciamo, centrale si è dedicato prevalentemente a spiegarci che tra il XVII e il XIX secolo, in due secoli, cioè quando è nata la modernità, il modo di pensare degli esseri umani, diciamo, almeno, come dire, nell'Occidente, si è radicalmente trasformato, e si è trasformato così radicalmente che ha generato dei nuovi oggetti di studio. Nelle parole e cose, che è un'opera pubblicata nel 1966, lui spiega come nasce la genesi del concetto di uomo, diciamo, come, cioè non della specie biologica Homo sapiens, ma del concetto moderno di uomo. E spiega che l'uomo prima del 600 non esisteva, che si è costruito questo, diciamo, concetto. Quindi non solo che è nata l'antropologia, non solo che è nata la linguistica, lui conduce questo esame, diciamo, esaminando tre grandi aree di, diciamo, pensiero: la nascita dell'economia politica, la nascita della linguistica, diciamo, grammatica, delle teorie della grammatica, quindi della linguistica, e la nascita della nuova biologia e delle scienze naturali. Sono tre campi di, diciamo, sapere che lui esamina in maniera, diciamo, diversa, e la tesi fondamentale di quel libro è che la nascita di queste tre nuove scienze, di questi tre nuovi campi del sapere, che infatti lui poi chiama con un nome particolare, non è stata la nascita di nuovi strumenti o di nuovi modi di pensare che studiassero degli oggetti che c'erano già prima. Nascendo queste nuove teorie, questi nuovi campi disciplinari, essi hanno prodotto contemporaneamente i propri oggetti. Non c'era l'economia politica come insieme di fatti prima che nascesse l'economia politica come, diciamo, teoria. La, virgolette, natura che si mette a studiare Darwin o poco prima di lui Cuvier, eccetera, non è la stessa che studiavano quelli del Rinascimento e neanche le persone del XIII secolo, Geoffroy de Saint-Hilaire, per esempio. La lingua di cui ha parlato, di cui fra i primi ha parlato Wilhelm Humboldt, non è la stessa lingua di cui parlavano i grammatici, diciamo, rinascimentali, e neanche quella di cui parlavano i grammatici francesi del 600, a cui Chomsky si rifà. Nel suo tentativo di riagganciarsi a un pezzo della storia culturale dell'Europa, Chomsky, che è americano, ma insomma non vuol dire un cazzo, lui esplicitamente rivendica una sua discendenza da Cartesio. Uno dei suoi saggi più importanti si chiama Per una linguistica cartesiana. In realtà lui con Cartesio intende relazionarsi certamente al modo di pensare generico di Cartesio, ma più che altro alla tradizione logica e linguistica del 600 francese, che si riassume in due libri famosi, in un nome particolare che è La scuola di Port-Royal. Port-Royal era un collegio di gesuiti il cui esponente più importante si chiamava Jean-Paul, non mi ricordo, Arnaud, e se scrissero che scrissero due libri importanti usciti nel XVII secolo in Francia, scritti da questo Arnaud in realtà, ma non però firmati da lui, perché erano firmati con un'opera collettiva, La Grammaire de Port-Royal e La Logique de Port-Royal, La grammatica di Port-Royal e La logica di Port-Royal. E Chomsky si rifà esattamente a questa diciamo, tradizione, no? Ed è importante che questa stessa, come dire, diciamo, tradizione viene decostruita da Foucault nelle parole delle cose. Nelle parole delle cose Foucault spiega che c'è stata una, diciamo, cesura tra il 600, che in Francia si chiama l'età classica, i francesi usano questo, chiamano l'età classica il loro 600 perché è il secolo nel quale, non a caso il secolo in cui l'Italia comincia culturalmente a declinare, e la Francia, che fino al secolo prima non era un granché importante nell'Europa, comincia a venire su insieme ovviamente con l'Inghilterra. La Germania verrà fuori un paio di secoli dopo, per il momento sono ancora poco più dei bovari, è così che ci possiamo fare, no? Cioè, dal punto di vista filosofico non, però quando poi arrivano ovviamente si sbaragliano tutti gli altri, come ovvio, ma so. Però diciamo ancora nel 600 la filosofia, nel 500 era stata un affare italo-franco-olandese, nel 600 comincia a diventare un affare franco-inglese, cioè sono la Francia e l'Inghilterra e in parte anche la Spagna, ma la Spagna come filosofia non ha mai avuto una grande, letterariamente, no naturalmente, perché la Spagna in quel periodo lì, a parte che è l'impero più importante del mondo, probabilmente sia pure per un breve tempo, e poi comunque hanno Cervantes, insomma Gongora e Calderon della Barca, che diciamo l'Italia non si sognava neanche. L'Italia ha una piccola coda dello splendore rinascimentale che si chiama Galileo Galilei, che però è una specie di escrescenza del diciamo rinascimento dentro il XVII secolo. E poi c'ha alcune eccezioni in Italia, perché gli outsider non mancano mai, ci possono sempre essere. C'è Gian Battista Vico nel Settecento, che è un importante anche per Hegel o anche per gente così, però non c'è più un tessuto, insomma, diciamo, in Italia. L'Italia è un paese che insomma, declina a seguito di questioni politico, diciamo, economiche, insomma. La Lombardia, che era uno dei luoghi d'Europa candidati a essere uno di quelli in cui si poteva sviluppare il capitalismo, venne invece, per una serie di condizioni politiche sfavorevoli, venne diciamo surclassata dal sud dell'Inghilterra e dalle Fiandre, quindi il capitalismo nacque lì e poi da lì diciamo passò in Francia, ma trascurò totalmente l'Italia. L'Italia diventò un paese capitalistico soltanto alla fine dell'Ottocento, insomma, grosso modo. Prima non sì, vabbè, cioè era inserito dentro il sistema capitalistico internazionale, ma non aveva. Va bene. Allora concludiamo dicendo che concludiamo con un'altra frecciatina a Chomsky, e così comunque insomma chi vuole questo qui credo sia anche disponibile in rete, questo libro Chomsky Foucault della natura umana, invariante biologico e potere politico, non so se l'ho messo nella bibliografia, non l'ho messo, quindi vedete un po'. Sì, allora chi non ha preso il coso se lo può prendere, che potete fare la copia oggi apposta, chi non ha la copia se la fa. Allora l'ultima cosa che dico, ho promesso, è interessantissimo questo richiamarsi di Chomsky a Cartesio. Perché? Perché Chomsky che apparentemente, o diciamo per sua dichiarazione, è un materialista e un monista, in realtà si richiama al pensatore moderno che è stato l'inventore della forma moderna di dualismo. Cartesio è colui che si inventò, riattualizzò il dualismo platonico e quindi anche cristiano in una forma relativamente nuova, ma pur sempre dualista, cioè res extensa, res cogitans, materia, mente, materia, con il pensiero. Per Cartesio, al contrario di Spinoza, la mente rappresenta una sostanza diversa dalla materia. La mente, aiutato anche dal fatto che nella lingua francese non esiste una parola per mente, quindi loro dicono mente e spirito con la stessa parola, la mente in francese è l'esprit, che vuol dire anche lo spirito, non c'è la mente, come in italiano o in inglese o anche in tedesco. I francesi hanno l'esprit. Quindi nella dualità tra matière e esprit, materia e mente, che sono due sostanze incomunicabili, e tutto il meccanicismo cartesiano si applica solo alla materia, non alla mente, non allo spirito. Quindi è buffo che un pensatore dichiaratamente anarchico e materialista in realtà debba, per rafforzare le proprie posizioni, fare riferimento al più importante dualista della modernità in Europa. Chiudiamo così per oggi e ci vediamo martedì prossimo.